cerca estar, lo affrontare serenamente. Y a veces yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo ello fue a mi manera. Too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course and each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit on more than I pursue. I ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Un soldado acaso regresó, un niño enfermo se curó. Ya no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y un nadie lo repudia, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Per te, blind, but now I see. 'Twas Christ that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. La música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. dove ci sei, la luce delle stelle seguirò, dove vorrei il mare li attraverserò. C'è ogni movimento che soffia quella tua fragilità sul mio destino. Nel cielo, nel sole, ti porto questa vita e questo cuore sincero, la promessa resterà e qui ci aspetterà. Non mi fermerò, per sempre cercherò, non respirerò. Notte di luce, una notte infinita, una lettera che non sarà mai spedita. Cos'è la realtà? Io non lo so più. Ad occhi accendi, il mio sogno sei tu. Io ti amo, sì ti amo, quanto ti amo. Respiro il silenzio dei tuoi pensieri, un giorno sarai tutto quello che speri. Io ti amo, sì ti amo. di luce, una notte infinita, una lettera che non sarà mai spedita. Time for us. So- Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Ladies and gentlemen, welcome to an evening with El Divo. We are so thrilled to be here with you tonight. We hope you're going to enjoy the journey we're about to take you on. Non mi abbandoni se sì, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más tocar tu piel, hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme. Se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás, tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Ma solo piano perché so che il tuo amore è solo per me. So che un dì mirar